Essere genitori, guide terrene. Miei carissimi fratelli e sorelle, vi porto in quest'ora la parola della nostra cara sorella e maestra Lia Ximenes. Miei carissimi, arrivo in quest'ora per parlarvi del ruolo delle guide terrene. In termini celesti, non usiamo la parola genitori bensì guide terrene. Se osservate il rapporto esistente tra noi guide celesti e voi spiriti incarnati, potrete comprendere come la relazione tra voi e le anime che avete accolto è profondamente unica, indipendente ed eterna allo stesso momento. Noi vi siamo accanto sempre, in ogni ora. Vi ascoltiamo, vi amiamo incondizionatamente, vi guidiamo, rispettiamo il vostro andare, interveniamo anche a vostra insaputa in ora particolarmente difficili e impegnativi, prestiamo continua attenzione. Quando si è guide in terra si porta con sé la capacità di guidare spiritualmente e fisicamente. Il vostro spirito ha la capacità di amare esattamente come noi amiamo voi in ogni ora. Dall'altro lato, la vostra personalità, la vostra umanità, porta con sé doni e sfide nel rapporto con coloro che avete, nell'ora che fu, deciso di accogliere e guidare. Voi siete esattamente ciò che i vostri figli necessitano per il loro programma, ed a loro volta i vostri figli sono esattamente ciò che a voi serve per il vostro programma, dove per programma intendo il percorso deciso nell'ora che fu dai vostri spiriti, con la piena consapevolezza della meta finale. Con questo, non vorrei che pensaste che non c'è lavoro interiore, non c'è crescita. Il lavoro interiore è incessante e veramente impegnativo, perché il legame è unico, indipendente ed eterno. Le dinamiche che scaturiscono tra le guide in terra e le anime accolte sono profondamente salutari. Portano alla luce ciò che va riconosciuto e lasciato andare. Naturalmente l'età terra delle anime accolte è molto importante nel comprendere le dinamiche energetiche dell'ora presente. Non combattete una energia che sta cercando di individuare la propria forma, ma senz'altro guidatela e non abbiate paura di dire no, e non abbiate paura di dire sì. Chi vi è di fronte sta attraversando un'ora di transizione, e chiede, vuole, necessita la vostra guida terrena, anche se esteriormente potrebbe sembrare esattamente il contrario. Amore è una forza infinita e racchiude in sé tante espressioni energetiche, gioia, felicità, innocenza, pace, compassione, realizzazione. Racchiude in sé morbidezza, ma anche, non dimentichiamolo mai, la forza del Padre che guida con distacco santo, chiarezza di pensiero e una visione totale del benessere di chi ci è di fronte. Guardate indietro alla vostra esperienza. Quante volte da adulti vi siete detti, se mio padre o mia madre avesse detto o fatto diversamente? E spesso c'è una nostalgia per no terapeutici detti dal cuore e per sì terapeutici detti dal cuore. Guidate con forza e morbidezza. Imparate ad indirizzare queste due energie. Non a caso le guide terrene sono madre e padre. Come guide terrene siete invitati in ogni ora ad usare il vostro credo per il massimo benessere di coloro che avete accolto. Il vostro credo, i vostri pensieri, la vostra energia sono strumenti di un'importanza al di là della comprensione umana. Siamo co-creatori con il Padre. La nostra intenzione muove l'energia nella direzione che decidiamo. Attraverso il respiro, portiamo terra e cielo insieme. I nostri poteri energetici sono realmente illimitati. Per questa ragione, visualizzare le anime accolte felici, serene, centrate, in buona salute, in breve circondate da energia amorevole e positiva, è un grande dono che fate a voi stessi e ai vostri figli. L'opposto è anche vero. Se mettete il vostro credo nella paura e nelle visualizzazioni drammatiche e negative, la vostra intenzione rafforzerà tale campo energetico. Naturalmente teniamo sempre presente l'onda terrena, che rappresenta il processo di guarigione di ogni spirito incarnato. La stessa compassione che ci viene richiesta di offrire ai nostri figli, ci viene chiesta innanzitutto di offrire a noi stessi. La sfida del processo di guarigione farà emergere sentimenti che dovremo guardare per essere in grado di lasciarli andare, e spesso ciò avviene quando l'onda comincia a scendere. In quell'ora amiamoci più che mai, e ricordiamoci di fare la stessa cosa quando le anime accolte sono nella stessa fase dell'onda terrena. Prima di concludere il nostro incontro, vorrei precisare che come a noi non è dato di interferire con il vostro programma celeste, anche a voi non è dato di interferire con il programma celeste degli spiriti che avete accolto. Ascoltate bene, qui stiamo parlando delle scelte fatte da ogni spirito prima di incarnarsi. Noi come voi siamo guide e come tali abbiamo la responsabilità di agire su tutti i livelli a nostra disposizione, mentale, fisico, emotivo e spirituale. Ma non c'è dato di agire sul centro, sul programma, e ciò porta unicamente gioia e serenità, in quanto ciò che uno spirito sceglie prima di incarnarsi è per il suo massimo bene e profonda realizzazione. Ciò che ognuno di voi ha profondamente scelto di sperimentare durante questa vita è un dono per voi stessi. Questa precisazione è semplicemente una verità celeste, una legge universale. Prima di concludere vorrei invitarvi a non agire mai, o decidere, quando vi sentite invasi da panico o paura. Fermatevi, respirate, aspettate il tempo necessario per ritrovare la calma e il centro, e poi sintonizzatevi con il vostro spirito. Ascoltate e vedrete che tutto sarà chiaro. Con tanto amore. Lia. Essere guide in terra. No terapeutico e proibire. Sorella cara, il nostro carissimo fratello è uno spirito meraviglioso. Questa è la sua verità. Niente e nessuno potrà cambiarla. La vita su Gaia porta le circostanze perfette per l'evoluzione di ognuno. Il suo campo energetico è informazione. Sta prendendo forma e quindi la personalità sta sperimentando gli strumenti, le energie a disposizione. Prova differenti vestiti. In questo momento sta provando, sperimentando, l'energia del fuoco, del no, del faccio come dico io. Sta provando a guidare, a prendere in mano la sua vita. È saggio lasciarlo fare, continuando a guardare attentamente e accompagnandolo. Stai serena, sorella mia, lascia fluire questo fiume. Siate le rive che lo contengono con amore e fermezza. Continuate a cercare il contatto, a spiegare, ad alleggerire. Il nostro fratello ascolta ed assorbe. Cecilia, non so cosa fare con l'internet, i giochi di guerra, il computer. Ho paura che tutte queste immagini, mondi, che vive siano benzina sul fuoco, creino, rinforzino, il credo che il più forte o il più aggressivo vince. I maestri. Questa generazione sta vivendo situazioni diverse da quella della tua generazione. È una scelta consapevole dello spirito prima di scendere. Si è scelto questo ora in questa dimensione con queste sfide. Il lavoro del genitore è di guardare con attenzione, di regolare l'entrata, l'accesso a queste fonti. In questo modo prepari l'anima che ti è affidata a ciò che sarà. L'incontro con molte delle situazioni vissute virtualmente sarà inevitabile, lo scontro, la guerra, sia tra due individui o nazioni. Non ritiratevi, state, accompagnate, parlate, spiegate. Sarà un'opportunità anche per voi. Create le situazioni per cui questa opportunità di dialogo si possa manifestare. Iniziate una conversazione. Il proibire è spesso una scorciatoia per non stare, per non esserci, per allontanarsi. È un rimandare. Se il negativo entra, sotto forma di gioco di guerra per esempio, è un'opportunità per studiarlo, osservarlo e osservarne i risultati insieme. L'importante è la presenza, il confronto, il non abbandono a se stessi. Regolate il flusso se lo percepite eccessivo, con fermezza e costanza, un'opportunità per voi di esercitarvi nell'uso di queste energie. Osservate ciò che l'universo vi propone in casa. È la situazione perfetta per voi. La più immediata, l'opportunità più vicina. Non la sfuggite. State. Porta regali di crescita anche per voi. Mantenete l'attenzione viva, la gioia, la fede, l'impegno, non lo sforzo. Queste sono energie che vi nutrono e vi fanno crescere. Energie che nutrono il piacere positivo dell'attenzione, del discernimento, del contenere con amore, dell'esserci. L'essere padre e madre è una porta di accesso nell'animo umano, il proprio e quello dei propri figli. Una scelta che porta questo regalo quotidiano. L'opportunità di osservare e lavorare con l'animo fanciullo, in crescita, in evoluzione costante, alla ricerca della sua identità. È, in una scala più piccola, come l'essere padre e madre dell'umanità. C'è l'opportunità di osservare, intuire, dare, ricevere, fluire, e molto di più. La famiglia è in verità un piccolo universo o sistema solare, quello che vi piace di più. Siate sereni e regolate, contenete, spiegate. Mettete, nel rapporto con i vostri figli, la stessa passione, impegno e sano distacco santo e discernimento che mettereste nella missione, perché loro sono parte della vostra missione. Sono, in verità, la parte della missione che è già qui, che si è già presentata. Avete accolto degli spiriti meravigliosi. guardate al di là dell'apparenza, delle varie età. Siate lo specchio, per loro, di ciò che sono veramente. Siate la loro memoria di chi sono veramente. Fate sì che lo leggano nei vostri occhi, lo respirino nel vostro cuore e lo ascoltino nelle vostre parole. Siate fermi nella consapevolezza e nella guida. Amate, amate, regolate ed ancora amate. Amore e impegno. Cecilia, vorrei andare più a fondo sul proibire. Che differenza c'è tra il no terapeutico e il proibire di cui state parlando? I maestri. La differenza è nell'intenzione. Il no terapeutico ha un'intenzione di guida, di impegno. Sorge dall'intuizione, dal profondo, dal sapere ciò che è necessario per il benessere dell'anima in questione. Il proibire di cui sto parlando nasce dalla paura di impegnarsi, dal desiderio di tagliare corto, per così dire. Può provocare ribellione. Schiaccia. Ricordatevi che siamo con voi in ogni istante. Con amore. L'arrivo su Gaia. L'arrivo su Gaia non è la nascita come voi la intendete, ma è il momento esatto in cui l'anima che accoglie, la madre, avverte l'entrata della nuova anima in sé. Quasi nessuna creatura terrena riesce più a cogliere questo istante meraviglioso, ma chi è risvegliato può sentirlo con una semplicità estrema. È il contatto del filo energetico più sottile e raffinato che ci sia, che mantiene collegate due anime appartenenti a dimensioni completamente differenti in un'ora indefinibile. Le parole terrene non possono arrivare a spiegarlo. Ximenes e Grisenda.